Come vincere Satana. Gesù ci ha insegnato, nella preghiera modello al Padre nostro, a chiedere liberaci dal maligno. Nella preghiera sacerdotale, egli ha chiesto al Padre di preservare dal maligno i suoi discepoli. Non vi è, dunque, dubbio che il credente abbia a che fare con le potenze malefiche. Un figlio di Dio non può essere posseduto dal maligno, ma può esserne influenzato, accecato, sedotto e ingannato. Queste esperienze non sono né poche né isolate. Cerchiamo quindi di considerare come un figlio di Dio possa vincere Satana. Prima però è utile spiegare la ragione per la quale un figlio di Dio non può essere posseduto da Satana e inoltre che la pratica dell'esorcismo non è secondo la volontà di Dio. Sgombrato il terreno, vedremo in seguito i modi in cui si renda possibile la vittoria su Satana. 1. In nessun punto del Nuovo Testamento è detto che i cristiani debbano esercitare un ministero d'esorcismo sui loro fratelli disturbati da Satana. 2. Tutti i casi biblici, riguardanti possessioni demoniache, trattano di persone non cristiane. 3. L'esperienza insegna che tanti figli di Dio, i quali hanno cercato nei ministri di liberazione la soluzione ai loro problemi, hanno infine trovato la vera liberazione per mezzo di una cura d'anime biblica, appropriata e tranquilla. 4. L'esorcismo impedisce alla persona di sperimentare un vero pentimento, perché attribuisce il peccato e i cattivi comportamenti unicamente all'influenza dei demoni. 5. Non bisogna onorare Satana attribuendogli più potenza di quella che ha realmente. Assodato che Satana non può possedere chi appartiene a Cristo, come può un figlio di Dio impedire al maligno di ingannarlo e sedurlo? Esaminiamo nel nostro studio 9 aspetti di tale questione. A. Mediante il sangue dell'agnello Apocalisse 12:11. Ma essi l'hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello. Chi governa questo mondo è l'Eterno, colui che ha creato cieli e terra. Sempre secondo la Scrittura. Però, il principe di questo mondo è Satana. Ne deriva che tutti coloro che non sono figli di Dio, in una certa misura, siano in potere di Satana. Essi sono, da quest'ultimo, resi schiavi e accecati. In definitiva, essi sono figli di Satana. L'uomo è quindi impotente a combattere il principe di questo mondo, in altre parole suo padre. E Cristo, infatti, colui che ha vinto Satana mediante l'opera della croce. E, poiché egli è risorto il terzo giorno, suo è il compito e sua la competenza di combatterlo. Ne consegue che, se non si è coperti dal suo sangue, non vi sia speranza di vittoria. Queste riflessioni sono perciò rivolte in modo particolare a coloro che sono diventati figli di Dio, mediante un atto di fede nell'opera di Gesù Cristo. Per vincere Satana, l'uomo ha bisogno di mettersi sotto la protezione dell'opera di Cristo. Gesù Cristo ha sconfitto il tentatore e l'accusatore dei cristiani. Chi accetta la sua opera deve pure appropriarsi la sua vittoria. Per vincere il re del male, bisogna essere dei figli di Dio. Il sangue di Cristo, oltre a salvare dalla perdizione, protegge dal male e dal maligno. B. Mediante la parola della testimonianza Apocalisse 12:11. Ma essi l'hanno vinto. Per mezzo della parola della loro testimonianza. Figlio di Dio è colui che ha creduto e che testimonia della sua fede in Gesù Cristo. C. E chi parla di Cristo, anche senza aver creduto in Lui, ma non si può credere in Cristo e non testimoniare di questo. Paolo considera la testimonianza quale condizione di salvezza. Questa è la parola della fede, che noi predichiamo, poiché se confessi con la tua bocca il Signore Gesù e credi nel tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Col cuore infatti si crede per ottenere giustizia e con la bocca si fa confessione per ottenere salvezza, perché la Scrittura dice: chiunque crede in Lui non sarà svergognato, Romani 10:9-10. Mentre il sangue di Gesù riguarda noi e Dio, la testimonianza riguarda noi e gli uomini. Una testimonianza fatta con efficacia preserva il cristiano dal peccato, perché lo costringe ad essere coerente con quello che egli afferma. Un ragazzo testimoniava della sua fede in una sala da ballo quando un giovane gli disse: «Tu dici di essere un cristiano. Perché allora frequenti questi squallidi luoghi?» Confessare Gesù è indispensabile sia per la salvezza dalla perdizione sia al fine di condurre una vita santa. Il cristiano, che non testimonia della sua fede in Cristo Gesù, parte con il piede sbagliato, prestando il proprio fianco al nemico. C. Non amare la propria vita. Apocalisse mezzogiorno e 11. Ma essi l'hanno vinto, perché non hanno amato la loro vita, tanto da esporla alla morte. Morire per una causa non è facile, ancora di meno è l'essere pronto a morire per la causa. Questo è dovuto forse al fatto che non accettiamo la morte nelle piccole cose. La morte è una separazione. Separazione dei genitori quando si frequenta la scuola, quando ci si sposa. Si spezzano amicizie, compagnie. La vita è fonte di continue separazioni. Una continua morte. Gesù si è espresso forse anche troppo chiaramente. Chi ama la sua vita la perde, chi non l'ama la ritrova. Sì, per vincere Satana occorre morire ogni giorno. È indispensabile rinunciare a dare la precedenza ai propri affetti, ai propri interessi e ai propri desideri per comprendere, e non tanto a livello intellettuale, quanto con una rivelazione che tocchi la coscienza di ognuno, che a Dio spetta il primo posto, e il secondo e il terzo, ogni giorno, come in ogni cosa. Le nostre capacità emotive sono limitate. Se noi esauriamo i nostri affetti per un oggetto, non avremo più per un altro. Molti bravi figli di Dio sono caduti nella trappola dell'amore del denaro o degli affetti. Alcuni hanno soffocato la parola di Dio con le cure lecite della vita, altri si sono legati sentimentalmente a dei figli di Satana con un affetto senza limite, spegnendo così l'ardente zelo per l'opera di Dio. Per vincere Satana occorre non tenere cara la propria vita. Non dare delle occasioni al diavolo. Efesini 4:27. Non date luogo al diavolo. Gesù disse: «Se uno mi serve, mi segua, e là dove sono io, là sarà anche il mio servo». La caratteristica di un figlio di Dio è seguire le orme del suo Salvatore e Signore. La propria fedeltà, però, non gli evita la tentazione. Anche Gesù, infatti, fu tentato. Una cosa è però l'essere tentati, perché ciò rientra nella volontà di Dio per il nostro bene, altra è l'esserlo perché non ci si trova nel posto giusto. Nella lettera agli abitanti d'Efeso, l'invito di Paolo è a vivere in modo che il diavolo non li tenti a causa della loro mancanza d'accortezza. Il figlio di Dio non deve dare occasione al diavolo di tentarlo inopportunamente. Per questo occorre molto autocontrollo su ciò che leggiamo, in ciò che guardiamo, dove andiamo, chi frequentiamo. Se è difficile resistere alle tentazioni che ci vengono da parte di Dio, quanto meno potremo resistere a quelle che noi stessi ci procuriamo. Si può dare spazio a Satana anche quando si sta svolgendo un compito indubbiamente buono e di valore, ma che non ci compete, come l'essere conduttore di una chiesa o diacono. Si può dare spazio al tentatore sposandosi quando invece si è chiamati al celibato e viceversa. Qualora si abbia una vita costellata da tentazioni, diventa saggio valutare se si sia al posto giusto. E essere sobri. 1 Pietro 5:8-9. Siate sobri, vegliate, perché il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. Resistetegli stando fermi nella fede, sapendo che le stesse sofferenze si compiono nella vostra fratellanza sparsa per il mondo. Tra le virtù che dovremmo desiderare maggiormente dovrebbe esserci la sobrietà. E, più facile, trovare un figlio di Dio troppo zelante, troppo comprensivo, troppo altruista, piuttosto che uno sobrio. Perché la sobrietà è il risultato di un buon ragionamento. Un estremista è un boccone prelibato per Satana. Egli lo cerca con la bramosia di un leone affamato. Una volta avutolo in suo potere, può fargli fare quello che vuole, e lo sventurato penserà di agire nel nome di Dio. Vi sono cristiani che hanno lasciato delle piaghe nell'opera di Dio, a causa della loro mancanza del carattere di un vero servitore, per non aver imparato ad essere sobri in ogni cosa. Sobri non si nasce, si diventa. Ha dovuto riconoscerlo anche Paolo. Ho imparato ad essere contento nello stato in cui mi trovo. So essere abbassato, come anche vivere nell'abbondanza. In tutto e per tutto ho imparato ad essere sazio e ad aver fame, ad abbondare e a soffrire penuria. Io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. Paolo sapeva essere sobrio, perché si era lasciato modellare dalle circostanze che Dio gli forniva. Satana è incapace di far compiere atti estremi a chi è sobrio. F. Resistere al diavolo Giacomo 4:7. Sottomettetevi dunque a Dio, resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Il compito del cristiano non è combattere Satana. Egli non deve interessarsi di scandagliare tutte le profondità del male, così come non deve andare in cerca di demoni da scacciare o andare in giro a legare Satana, il quale peraltro sarà legato solo durante il millennio. Il suo compito invece è quello di essere sottomesso a Dio. La mancanza più grave nel regno di Dio è proprio la carenza di sottomissione. Essere sottomessi significa scegliere di compiere la volontà di Dio, anche se questa può sembrarci assurda. Quale esercito vincerebbe se ogni soldato combattesse secondo le proprie vedute? Quale palazzo potrebbe essere costruito se ogni operaio facesse quello che ritiene opportuno? Quale nazione potrebbe vivere in armonia se ogni cittadino operasse secondo la sua morale? Per vincere Satana è indispensabile cedere alla volontà di Dio e resistere al diavolo. Resistendo invece a Dio saremo costretti a cedere al diavolo. Se siamo troppo fragili rispetto alle tentazioni, è bene prendere in considerazione se non stiamo resistendo alla voce dello Spirito Santo in relazione ad un peccato, ad una chiamata o ad una convinzione prodotta da Lui. G. Essere semplici nel male e savi nel bene. Romani 16, 19-20. La vostra obbedienza infatti si è divulgata fra tutti, io mi rallegro quindi per voi. Ora io desidero che siate savi nel bene e semplici nel male. Ora il Dio della pace schiaccerà presto Satana sotto i vostri piedi. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con voi. Amen. Viviamo in una società che la parola di Dio giudica accecata da Satana. Possiamo noi dire che l'umanità sia veramente accecata? Non riescono forse gli uomini a fare cose grandiose, a costruire grattacieli, a scrutare l'universo, ad inventare macchine d'ogni tipo? Sì, è vero. L'uomo che vive lontano dal suo creatore non ha perduto completamente ogni capacità donatagli da Dio, ma è accecato per quanto riguarda la sua morale. Siamo talmente corrotti moralmente al punto di essere divenuti savi in ciò che è male e incapaci di compiere il bene. Chiamiamo bene il male e male il bene. Siamo tutti maligni, sospettosi, maliziosi. In questa situazione Satana fa il suo gioco, gioisce come un'oca quando piove in una giornata afosa. Per vincere Satana è indispensabile che il cristiano perda quella malizia che è insita nella sua natura e acquisti sapienza per fare il bene. Quando non ero un figlio di Dio gioivo delle barzellette a doppio senso, ora sono deriso perché non ho più la malizia di una volta. Io ritengo questo un onore. Dice la scrittura, per i puri tutto è puro. Satana si trova disarmato di fronte ad un'anima semplice, sincera, schietta. Una cosa che si ha riconosciuta sbagliata è da evitare. Discuterla, come fece Eva con Satana, è già una sconfitta. Chi è impegnato in opere buone, chi è interessato ai bisogni degli altri, non dà spazio al maligno e lo ha vinto. H. Rivestirsi dell'armatura Efesini 6, 10-20. Del resto, fratelli miei, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Rivestitevi dell'intera armatura di Dio, per poter rimanere ritti e saldi contro le insidie del diavolo, poiché il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori del mondo di tenebre di questa età, contro gli spiriti malvagi nei luoghi celesti. Perciò, prendete l'intera armatura di Dio, affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare ritti in piedi, dopo aver compiuto ogni cosa. State dunque saldi, avendo ai lombi la cintura della verità, rivestiti con la corazza della giustizia, e avendo i piedi calzati con la prontezza dell'Evangelo della pace, soprattutto prendendo lo scudo della fede con il quale potete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Pregando in ogni tempo con ogni sorta di preghiera e di supplica nello Spirito, vegliando a questo scopo con ogni perseveranza e preghiera per tutti i santi, e anche per me affinché quando apro la mia bocca mi sia dato di esprimermi con franchezza per far conoscere il mistero dell'Evangelo per il quale sono ambasciatore in catene, affinché lo possa annunziare con franchezza come è mio dovere fare. Un figlio di Dio impara subito che la vita cristiana è un combattimento contro il maligno. Dal giorno che un cristiano si è schierato dalla parte di Dio, poiché ha cambiato esercito, si è ritrovato nemici coloro che prima erano amici. Inoltre, scopre di trovarsi in un territorio nemico, cioè questo mondo. Per questo, per sopravvivere in territorio nemico, deve conoscere e usare le armi che Dio gli ha dato. Secondo Paolo, tali armi a disposizione per combattere sono la verità, la giustizia, il Vangelo della pace, la fede, la salvezza, la parola di Dio, la preghiera. Queste armi non si trovano in un'armeria, non si comprano in nessun negozio. Esse sono donate gratuitamente mediante la comunione con Gesù Cristo. Chi appartiene all'esercito di Dio, per vincere Satana non può fare a meno della parola di Dio, della testimonianza, della preghiera, della fede ed ogni altro mezzo. Fornitoci da Dio. Se accusiamo delle ferite nel nostro combattimento spirituale, dobbiamo chiederci se manchiamo di qualche pezzo della suddetta armatura. Prima di lamentarci delle prove, controlliamo se abbiamo indossato tutta l'armatura. Soprattutto, stiamo attenti ai due pezzi mobili, lo scudo e la spada. Con lo scudo possiamo parare in qualsiasi direzione le frecce di Satana. Con la spada possiamo colpire in ogni direzione il maligno. La mancanza di uno di questi pezzi dell'armatura ci rende particolarmente vulnerabili, esposti alle tentazioni. Occorre perdonare, 2 Corinzi 2, 10-11. Ora chi voi perdonate qualche cosa perdono anch'io, perché anch'io se ho perdonato qualcosa a chi ho perdonato, l'ho fatto per amor vostro davanti a Cristo, affinché non siamo sopraffatti da Satana, perché noi non ignoriamo le sue macchinazioni. Essere semplice e puro non significa essere sprovveduto o ingenuo. Il cristiano non è chiamato a combattere Satana, ma neppure ad ignorare il suo modo di operare. Egli sa che l'avversario conosce la parola di Dio, che la usa a sproposito. Per questo, egli deve esaminare ogni dottrina e pensiero. Il cristiano sa che il diavolo ha un suo evangelo, che ha suoi ministri che si travestono da angeli di luce che presentano delle verità bugiarde. Per questo, egli deve esaminare ogni uomo chi affermi di parlare da parte di Dio. Nonostante ciò, il pericolo più grande non viene da fuori, ma da dentro, dal suo cuore. La nostra esistenza è seminata di torti e di scandali. A proposito degli scandali, Gesù li ritiene addirittura necessari. Chi non voglia essere sopraffatto da Satana deve perciò perdonare e saper perdonare. Satana lavora spesso e volentieri nei cuori feriti in coloro che mantengono e coltivano radici velenose, in coloro che non hanno perdonato. Una persona che non abbia perdonato è soggetta ad un parlare tagliente, a reazioni non caritatevoli, tende a dividere, a seminare del male, a sparlare. Tra le cose che Dio odia, vi è proprio chi semina discordie tra fratelli. Lo scopo di Satana è sempre quello di dividere, di disunire, di creare inimicizie, contese, sette. Il cristiano, che abbia compreso la tattica di Satana, sarà sempre pronto al perdono, alla riconciliazione, all'armonia divina. Chi agisce così ha vinto Satana e i suoi piani. Come vincere dunque Satana? Occorre innanzitutto appartenere a Gesù Cristo e in seguito testimoniare della propria fede, anche a costo della vita. Occorre avere la saggezza di non dargli spazio nelle tentazioni, essere sobri, resistergli essere semplici nel male e fare il bene. Inoltre, bisogna rivestirsi dell'intera armatura di Dio. E soprattutto, non nutrire nel cuore nessun sentimento di vendetta o rivalsa. Detto questo, ricordiamo che saremo comunque sempre tentati. La tentazione ha però il suo risvolto positivo. Noi non sappiamo valutare le nostre forze. La tentazione ci fa vedere chiaro ciò che siamo. Dobbiamo quindi essere grati a Dio per ogni cosa, anche per Satana, perché chi regna su questo mondo è Dio, e da lui dipendono chi è ingannato e chi inganna, Giobbe mezzogiorno e 16, e perché la prova della nostra fede, che è molto più preziosa dell'oro che perisce, anche se viene provato col fuoco, risulta a lode, onore e gloria nella rivelazione di Gesù Cristo. 1 Pietro 1,7. Febbraio 1995, Ellero.